Intermezzo. Il ritorno. 1776. Nessuna traccia del Lord Hyde. Il brigantino di Joseph e la Croix si era staccato dal convoglio durante la tempesta. Guy Johnson lo scrutava all'orizzonte sperando di vederne spuntare gli alberi. Prima di allora, tedio e fatica l'avevano accompagnato come un'ombra bifronte. Il tedio era un retaggio di Londra, la fatica forse un'anticipazione delle prove a venire. Giorni e giorni di mare, passeggiate per sgranchirsi le gambe, distratte letture, visite alle altre navi, pasti vomitevoli. L'odore che saliva dalle stive, dagli alloggi dell'equipaggio, feriva le narici. Guy ebbe nostalgia del grasso dorso. Si appoggiò alla murata. Le onde erano lunghe, vertiginose. Gli avevano consigliato di guardare lontano, un punto sull'orizzonte, oppure avrebbe reso l'anima agli abissi conato dopo conato. La via per l'America, una scia di rifiuti gettati dal ponte, una traccia di merda e vomito. Si sentiva come l'uomo macchina di quei libri francesi che aveva sfogliato a Londra. Bisognoso d'olio in tutte le giunture, uomo statua collegato al mondo esterno da tunnel di sensi, nascosto entro una massa di materie inerte. Guy Johnson sapeva che l'impalcatura d'ossa era troppo esile per reggere il peso della carne e del grasso in eccesso. E se su carne e grasso si appoggiava il peso della responsabilità e della preoccupazione, ecco, il castello di carte crollava, albero marcio, percosso dal fulmine. Oltre l'orizzonte per non vomitare, oltre l'orizzonte, dove Marte percorreva la Terra. Sentì che tedio e fatica poggiavano su qualcosa di più profondo. Paura, figlia dell'incertezza, ma anche della consapevolezza di sé. Pensò a Esther e alle bambine, pensò al primogenito maschio, che non avrebbe mai chiamato per nome. Pensò all'ombra della moglie, pensò a tutto quello che aveva già perso e a quello che ancora rischiava di perdere. La sottile linea scura non era la costa americana, ma l'isola di Bermuda. La sentenza del capitano Silas venne accolta da un rosario di imprecazioni tra i denti e scaracchi per terra, in spregio alla sorte avversa che li aveva trascinati a sud. La tempesta in mezzo all'Atlantico li aveva separati dal resto del convoglio, spingendoli 600 miglia fuori rotta. Erano a galla, erano vivi, c'era soltanto da rimboccarsi le maniche. «Il mare tradisce», pensò Philip mentre ascoltava il capitano parlare. «Non ci puoi poggiare i piedi sopra, sei sospeso sull'abisso, ostaggio degli elementi, sul mare scivoli. E quando il vento increspa la superficie, la pianura diventa montagna, valanga che ti fa rotolare come una biglia. Dal mare sorgono mostri, le bestie sataniche delle scritture vengono da oceano, così come il serpente che divorò Laocoonte e i suoi figli. Il mare è infido e infernale, morire in mare significa non avere una tomba, un posto dove riposare». Eppure l'oceano gli aveva restituito il colore del volto. Il pallore di Londra apparteneva al passato. Dopo la burrasca il cielo si apriva sulla nave, azzurro denso solcato da altissime nubi. Poter guardare lontano, riabituare la vista agli spazi aperti dopo quegli angusti della capitale, significava provare a rimuovere il velo che ammantava i giorni futuri. Pensare a ciò che sarebbe stato aiutava a dominare il senso del passato, quello lontano e quello appena trascorso. Da quando erano in mare, aveva respinto i tentativi di conversazione di Joseph. Si limitava a poche parole. Sì? No? Forse. Ma adesso si ritrovavano uno accanto all'altro, appoggiati alla murata. «A cosa stai pensando?» chiese Joseph. Il volto di Philip fu attraversato da un'ombra. «Due palazzi di Londra potrebbero contenere tutta la nostra gente. Se qualcosa andasse male, il nome dei Mohawk andrebbe perduto per sempre». L'espressione di Joseph si fece dura, decisa. «Saprò convincere la lunga casa. L'esercito del re è sconfinato. Gli uomini che prenderanno le armi per lui sono impossibili da contare. Noi vinceremo». Philip non ribatté, l'attenzione attratta da un profilo lontano. Una vela. I due indiani osservarono l'enigma stagliarsi davanti a loro. «Non sembra una delle navi del convoglio», disse Joseph. Philip scosse la testa. Forse proveniva dalle isole. Il nome inciso sulla prua si intravedeva appena la distanza. Argos, gli sembrò di leggere. Joseph non si intendeva di grossi bastimenti, ma era stato barcaiolo abbastanza lungo per notare che aveva un pescaggio molto basso. Niente carico. Era più leggera e veloce del Lord Hyde e procedeva spedita verso di loro. Il grido piovve dall'albero di maestra. «Ci rubano il vento!» Con una manovra brusca il brigantino era entrato nella loro scia. Joseph sentì le vele sgonfiarsi con il rumore di un secco svuotato. Poi uno scoppio in lontananza preannunciò la colonna d'acqua che si sollevò davanti alla prua, investendo il ponte di spruzzi. Il capitano Silas urlò. Gli uomini corsero dappertutto. Spuntarono le armi. Joseph si voltò verso Philip. Stava già caricando il fucile. Una seconda cannonata sbragò la velatura. Silas ordinò di virare, offrendo il fianco al nemico e puntandogli addosso i cannoni di bordo. La nave pirata rispose con una manovra rischiosa. Scivolò a lato del Lord Hyde, tanto vicino da impedire il cannoneggiamento. Le due fiancate scorsero a poche yard di distanza. I marinai spararono da dietro le murate. Qualcuno lanciò biglie di ferro e chiodi con la fionda. Una voce gridò: «Arrendetevi agli Stati Uniti d'America! Consegnate il carico e la nave!» La Argos tentò di tagliare la rotta del Lord Hyde. Con la velatura danneggiata, il timoniere fece il possibile per evitare l'impatto. Le due navi si trovarono di nuovo affiancate, fino a sfiorarsi. Prima partì la salva di fucileria, poi un lancio di rostri e rampini che i marinai del Lord Hyde si affrettarono a sganciare e tagliare, coperti dal fuoco dei tiratori. Joseph e Philip presero la mira, le sagome che spuntavano sul castello di poppa, e spararono all'unisono. Il fumo si fece troppo denso per distinguere un qualunque bersaglio. Gli uomini attesero, le canne dei fucili appoggiate al parapetto. Joseph pensò che sarebbe stato triste morire lì, in mezzo al mare, non rivedere casa, i figli, Susanna. Non era così che doveva compiersi il suo destino. Se non poteva opporsi alla volontà di Dio, avrebbe venduto cara la pelle. Mormorò una preghiera. L'eco delle esplosioni e delle urla cominciò a diradare. Il silenzio conquistò lo spazio oltre le murate. Sciabordio, vento. Si intravide la sagoma scura della nave corsara in allontanamento. Li avevano respinti. Insulti volarono fuori portata. Il Nostromo ristabilì l'ordine a spinte e calci, muovendosi in mezzo al puzzo di merda e polvere da sparo. «Stati Uniti d'America», pensò Philip. Il Leviatano li aveva raggiunti in mezzo all'oceano. Vide Joseph avvicinarsi. Stringeva ancora il fucile. Capì che la morte gli aveva attraversato la mente, scacciando la paura. Portava sul volto la fermezza di un re di Israele. Non servivano sogni per sapere cosa gli aspettava sulla terraferma.